Europa 24. Buongiorno da Sergio Nava, bentrovati a questo appuntamento con Europa 24. Oggi vogliamo dedicare una puntata del nostro spazio di informazione alle opportunità per i ricercatori in Europa grazie ai finanziamenti comunitari. Cercheremo di capire in particolare quali sono le possibilità che si apriranno nelle prossime settimane in termini di bandi e fondi, ma approfondiremo anche qual è stata storicamente e qual è oggi la performance dell'Italia e dei ricercatori italiani nell'accaparrarsi i fondi comunitari destinati alla ricerca. Lo facciamo con Massimo Gaudina, capo unità comunicazione dello European Research Council. Come ogni anno avremo tre bandi, anche quest'anno, anche nel 2015, il primo sta uscendo proprio in questi giorni, si chiama Starting Grant e quindi va ai ricercatori giovani, quelli che hanno fra i 2 e i 7 anni di lavoro dopo il dottorato. Poi abbiamo, in autunno usciranno il bando Consolidator Grants, che va agli scienziati a metà carriera, quelli che hanno tra i 7 e i 12 anni dal dottorato, e leggermente più tardi usciranno i bandi per gli Advanced Grant, che sono per gli scienziati già affermati, quelli per cui non contano gli anni di distanza dal dottorato, ma contano almeno 10 anni di significativi risultati nel campo scientifico. E quindi sono tre bandi distinti, con finanziamenti distinti e competizioni distinte. Mediamente però, ecco, a quanto ammonta il finanziamento? Per uno Starting Grant lo stanziamento massimo è di 1,5 milioni di euro, che va a un singolo ricercatore, e con questo 1,5 milioni il ricercatore può assumere degli assistenti, può assumere dei giovani membri del team, può acquistare macchinari, può viaggiare, può sostanzialmente effettuare l'intera sua ricerca per una durata di 5 anni, e questo è uno stanziamento che per un giovane ricercatore è sicuramente importante. Stessa cosa per i Consolidator Grant, 2 milioni di euro, perché le spese sono maggiori, le ricerche sono più ambiziose, più complesse, e per gli Advanced Grant arriviamo a 2,5 milioni di euro a singolo ricercatore. In totale abbiamo circa 1,8 miliardi di euro per l'anno 2015-2016. Ovviamente tutte le informazioni su come candidarsi eccetera le si trova sul vostro sito, immagino? Assolutamente, si trova sul sito dell'IRC, che è irc.europa.eu. Poi l'application ufficiale si fa sul portale del programma Horizon 2020, perché l'IRC fa parte del programma Horizon 2020. Andiamo allora adesso invece ad analizzare come si comporta l'Italia, come si comportano anche i ricercatori italiani quando si tratta di fare application e vincerle anche per i bandi relativi alla ricerca. Purtroppo negli ultimi anni, se da un lato i risultati sono stati buoni per l'Italia, l'impressione è che spesso questi ricercatori italiani che vincevano i bandi in realtà lavoravano già all'estero. È ancora così? È ancora così, questo succede dall'inizio dei bandi dell'IRC, cioè dal 2007 fino ad oggi c'è questo trend. Intanto la prima informazione interessante è che l'Italia è al primo o al secondo posto nel ranking dei paesi in fatto di domande, cioè nelle applications gli italiani sono attivissimi, sono tra i ricercatori più attivi. Quando però vediamo i risultati delle selezioni, gli italiani scendono al quarto, quinto o sesto posto a seconda del bando e a seconda dell'annata. Il che comunque è un buon risultato, perché ci colloca l'Italia nella serie A di questa competizione, ma è vero quello che dicevate, e cioè che c'è una grande parte di ricercatori italiani che vincono le borse dell'IRC, ma le vincono facendo domanda dall'estero e lavorando in altri paesi, sostanzialmente nel Regno Unito, in Francia, in Svizzera o in Germania e anche in Olanda. Quasi la metà degli italiani vincitori di un IRC sono basati all'estero e svolgono la loro ricerca all'estero. Per essere precisi, abbiamo 260 italiani in Italia e 213 italiani fuori dall'Italia, quindi più di un terzo sono all'estero, e il contraltare è che sono pochi i non italiani che vengono in Italia a svolgere il loro progetto, ce ne sono soltanto 26 secondo le ultime statistiche. Quindi l'Italia è un paese che esporta o che ha già esportato molti talenti e molti cervelli e che non riesce invece ad attirarli dall'estero. Ed è tutto per questa puntata di Europa 24, un saluto, buon pomeriggio da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.